Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Cari ascoltatori, eccoci qui per una nuova puntata di Uno, nessuno, 100 Milan, in questo giovedì 23 luglio. Sapete ormai che abbiamo costretto il buon Leonardo Manera in quest'ultima settimana a venire dall'inizio, è un po' una sciagura. Attimo, guarda, siamo già alla fine di luglio, poi c'è agosto e di nuovo ripiombiamo nell'autunno. Sì. Beh, ripremiamo in autunno, ma tu avendo già firmato il contratto... È già passata l'estate praticamente. Sarai con noi. È già passata l'estate, non ci siamo accorti che era arrivata l'estate perché c'è stato il lockdown e adesso in un attimo è già sfuggita. Guarda come elude la domanda sul contratto. È stato ricco e sontuoso il rinnovo? Non ho avuto nessun rinnovo fino a oggi, quindi è inutile. Vabbè, che tu domani, mi... Domani, l'ultimo giorno, dai, inutile. Adesso... È inutile che tu mi prenda in giro perché io non ho come te un contratto garantito da più di 20 anni qui. Vai Manera, picchia duro così, vai Leo, come il centrocampista fabbro che sei, vai. Il garantito qui, garantito Milan come però, gli altri. Però siccome abbiamo scoperto una nuova, vecchia e nuova vena artistica di Leonardo nei giorni scorsi, e cioè il Leonardo canterino, anche oggi torneremo su questo, quindi magari puoi iniziare a dirottare per l'ultima parte della tua carriera, un po' prima del sipario finale alla My Way di Sinatra, verso questa nuova... Tu prendimi in giro, ma io suonavo il clarinetto nella banda del mio paese. Ecco, io ero preso in giro? Ero vestito col mio bel completino. Prego, esci una foto. Col cappello e suonavo il clarinetto. Questo è l'alpino in regia. Questo è l'alpino in regia. Io non avrei mai mandato una derisione del genere. Mai, mai. Mentre l'alpino in regia che saluta. Gli ascoltatori che hanno suonato in qualche banda potranno confermare quello che sto dicendo. Io volevo suonare il sassofono. Sì. Ma una volta quando andavi in una banda e chiedevi di suonare il sax, siccome loro avevano sempre bisogno di clarinetti, dicevano comincia col clarinetto che poi passare al sax è più facile, che era una scusa per farti suonare solo il clarinetto. Gli inchiodati del clarinetto. Perché diceva anche l'impostazione la stessa, ma il clarinetto è più facile rispetto al sassofono, e tutti quelli che come me volevano suonare il sax venivano invece dirottati appunto sul clarino, rimanendo poi appunto... C'è una famosa categoria proprio dei depressi del clarinetto, quelli che non sono mai riusciti a fare poi il salto vero al sax, no? Infatti io poi smisi di suonare nella banda proprio per quello, perché volevo i sax ma ero lì inchiodato al clarino. Vabbè, dai, insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi ci siamo in questo penultimo giorno fino alle 11. Enthusiasm about the future. Come sempre, come sempre. L'anno prossimo speriamo di cambiare questo enthusiasm about the future, che l'abbiamo sentito quest'anno troppe volte. Basta. Stiamo dibattendo questa questione, cari ascoltatori, dovremmo cambiarlo con la nuova stagione o fin tanto che rimane il presidente del Consiglio Conte? Cambiare perché diventa veramente ripetitivo, stancante alle orecchie. Anch'io sono per cambiare. Vabbè, ma non è che allora le sigle si cambiano? Sì, non è che vanno avanti per tutta la vita le stesse cose. Qui Conte ormai avrà smesso di far politica da 20 anni e ci sarà ancora enthusiasm about the future. Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. Per esempio, vale ancora, perché non è bellissimo 2019, ci sono anche gli anni a venire, quindi 2020. Bisogna 2021. cambiare i conduttori, basta Alessandro Milan, basta Leonardo Manera, basta Lorenzo Nespoli, Peter, tutto, cambiare basta, tutto. Licenziate tutto. Linfa nuova, energia nuova. Va bene, dai. Noi oggi vogliamo parlare e partire da un tema un po' diverso, lasciamo da parte la politica, anche se è un tema che intercetta la politica perché c'è una proposta di riguardo. Vogliamo parlare di un tema che riguarda direttamente tutte le famiglie, tutti coloro che hanno figli adolescenti, ma anche coloro che non li hanno e che da sempre

Leonardo, eccoci ritrovati con Uno Nessuno 100 Milan. Ora vogliamo dare spazio a una persona che è venuta a trovarci in studio e che tu conosci bene. Si tratta di Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, youtuber e star del web. Confermi, Leonardo? Io l'ho visto, ci sono rimasto male anche. Sì. Ero insieme a lui e c'erano molte persone che andavano da lui, chiedevano a lui l'autografo e a me niente, mi ha amareggiato tantissimo. E Luca, ammettilo, Leonardo in quelle situazioni si... incupisce. Si incupisce, vero, si ritrae come un bozzolo. Che tu dici, ma si può di più di così? Sì, si può. Ci sono situazioni in cui fa un altro passo più nel bozzolo. E inizia a borbottare, diciamo. Allora, tra l'altro, Luca Mazzucchelli, insieme al buon Leonardo, al nostro Leonardo, ha lanciato questo esperimento. Come possiamo chiamare esperimento? Su Audible, anche se si dice Audible, ma è bene dire Audible, perché sennò non lo trovano. Sì, il problema è che dicono che gli italiani non conoscono bene l'inglese, sì, allora bisogna pronunciare come si scrive, così si direbbe trova facilmente. Audible, ma è meglio dire Audible, che così gli italiani lo trovano. Che è questo esperimento che avete chiamato Guru. Guru è un acronimo oltre che guru. Esattamente, è una guida umoristica alle relazioni umane, e l'esperimento sta proprio in questo, se vogliamo, nel cercare di unire, mixare insieme una parte più scientifico-divulgativa che ha a che fare con la psicologia e col miglioramento di noi stessi, insieme a una parte di entertainment importante di cui Leo è portavoce autorevole. Tra l'altro, ecco, vogliamo partire allora da queste analisi del Censis, perché allora ci deve aiutare a capire, ci dovete aiutare a capire qualcosa, no? Perché siamo un popolo di incerti e pessimisti. Non guardare Leonardo Manera, perché sennò la risposta viene facile, insomma, senza aiutino a casa. Allora, da una parte direi che insomma cambia tutto alla velocità della luce, quindi l'incertezza è un po' di casa, no? Fa un po' parte della nostra vita, e la vera sfida, o quantomeno una delle prossime sfide più importanti, è quella di imparare a stare nell'incertezza. Tutto cambia, anche le relazioni sempre più velocemente, non che questo sia un bene, no? Non è un giudizio morale, ma è un dato di fatto. Quindi prima cosa direi sicuramente imparare a stare nell'incertezza. Secondo aspetto, provare a rispondere con questa incertezza partendo da dei punti fissi, ad esempio i valori sono importanti. Tutto cambia, ma probabilmente i valori devono essere la nostra ancora, no? Che cosa vale per noi nella vita? Perché la vita vale la pena di essere vissuta? Quindi è molto importante avere delle ancore. La prima notizia è che la vita vale la pena di essere vissuta. Questa è una notizia per Manera. Vedi, Manera si è svegliato questo lunedì, non era convintissimo di questo. Adesso meno male che Luca Mazzucchelli ogni tanto gli rinforza queste... È interessante, quando si vede tutto nero, non si vuole più andare avanti, a che cosa ci si appoggia per avere un barlume di ottimismo? Esatto, bisogna cercare un po' di amare il nero, di vedere qualche sfumatura magari un po' più chiara, e poi costruire uno scenario magari un po' diverso. Questa cosa ti abbatte ulteriormente, ma non c'è alternativa. Io vorrei capire, io non ho capito se Leonardo Manera è un pessimista, se è amaro sicuramente come dice lui, o quando lui a volte dice ma io in realtà sono un pragmatico, sono un realista, ecco. È vero, è Leo, non lo so, un po' probabilmente anche prigioniero di questo ruolo. Leo, bravo, hai detto la cosa giusta, è prigioniero. Non sono io così, liberatelo. Mi dipingono così. Questo devo dire è un'altra cosa che un po' giustifica questo pessimismo che tu dicevi all'inizio, Ale, nel senso che c'è un po' una cultura della lamentela che è molto forte. Adesso, forse in Italia, non so dirti se in Italia più che all'estero, però in Italia è un po' lo sport nazionale lamentarsi un po' di tutto, e questo purtroppo va a colludere col periodo di cambiamento molto rapido in cui siamo immersi e non ci aiuta. Ma secondo te il cambiamento porta effettivamente a una visione pessimistica? Secondo me no, la vita, guarda, si dice questo, Leo, che la vita è per il 20% quello che ti accade, per l'80% ciò che tu te ne fai di quello che ti accade. Cioè, ti faccio un esempio rapido, metti che io e te, non personifichiamo troppo, però due persone in automobile fanno un incidente, tutte e due si rompono il braccio destro. Stesso evento, stessa realtà, stesso cambiamento da affrontare. La prima dice: che sfiga, mi sono rotto il braccio destro, e adesso? E torna a casa e inizia a litigare con la moglie perché è nervoso, sgrida i bambini e si crea una realtà di un certo tipo. La seconda persona dice: che fortuna, mi sono rotto il braccio e sono ancora vivo. E allora torna a casa e dice a sua moglie: usciamo a festeggiare. E poi va dai bambini e dice: ho capito che la vita è un dono, il tempo è prezioso, passerò del tempo con voi in maniera diversa. Allora, stessa realtà, stesso cambiamento da affrontare, ma reazione mentale diametralmente opposta, e quindi tu vai a crearti parte una realtà diversa. È interessante, secondo te, Luca, questo costituisce l'80%, cioè il 20% sono i fatti, quindi una parte minoritaria, mentre la reazione, se vogliamo, è l'80%. Direi che poi ogni tanto 70%, ogni tanto 90%, per carità, no? Però secondo me è un gran parte della nostra vita dipende, insomma, da come noi l'affrontiamo. Cioè, in sostanza, da un lato c'è chi dice mi è successa una cosa, che sfiga, e invece l'altro che dice, come dico molti italiani, nella sfiga mi è andata bene. Ecco. No, io vorrei capire però una cosa, perché in questi audio che ci sono su Audible, allora diciamolo bene, ci sono tutte queste parti relative a Guru e alla coppia, affidate anche alla comicità di Leonardo. Beh, io qui ho imparato delle cose, devo dire. Ecco, ho imparato delle cose utili. Uno utili. Che da anni porta avanti il suo mantra, e cioè l'amore finisce sempre e comunque. Leonardo Manera, questo. Come vi è venuto in mente di utilizzarlo? Ho fatto un errore, poi si sono pentiti. Cosa hai imparato, Leonardo? Ho imparato una cosa molto interessante che è utile, credo, per tutti. Cioè, quando si discute, è non criticare la persona con la quale hai discusso, ma criticare le sue azioni. Perché se tu critichi la persona, vai a incidere nella sua questo intimità. Questo vale anche per i bambini. Bravo, Leo, questo hai imparato, Leo. Vale anche per i bambini. Crescendo. Cioè, bambino, non sei cattivo, ma hai sbagliato. Io, guarda, io ho 3 figli... Cioè, vai a rovinare la loro identità. Cioè, sei un fallito oppure hai sbagliato a fare questa cosa? Sono 2 messaggi in realtà molto differenti. Molto diversi. Cioè, non bollare come. Non bollare, non etichettare. Dobbiamo. Ecco, eppure anche questo qui, no, è un po' un nostro impulso, quello di dire tu sei sbagliato, tu non vali niente. Invece, no. Non un messaggio identitario, ma più sulle azioni, così allora si può modificare, cambiare, migliorare. Ad esempio, noi avevamo fatto un esempio sul lavare i piatti, no? Io e un'attrice interpretavamo una scena dove lei mi criticava perché io non avevo lavato i piatti, ma non perché non avevo lavato i piatti, mi diceva sei pigro ed egoista, e dopo invece nella risoluzione diceva io mi aspettavo che tu lavassi i piatti, invece è troppo lunga la frase, questa cosa è troppo lunga. Sei pigro è meglio, sei, capisci? Perché a volte, caro Luca, dobbiamo anche andare mi aspettavo che tu lavassi, sì. No, sei un fannullone, sei un pigro, rapido, è più rapido, basta, è finita la solo lezione. Che così il rapporto alla lunga si dispa. E infatti l'amore finisce sempre comunque. Luca, dacci 2 o 3 consigli su come mantenere le relazioni sul lavoro distese. Se vuoi di più, diventa di più. Cioè, cosa vuol dire? Che il tuo lavoro sarà migliore quando tu sarai migliore. Quindi non possiamo partire se non da noi stessi. Tu vuoi un lavoro da 10 lode, ma tu stai lavorando per avere delle competenze da 10 lode, vuoi delle relazioni sul lavoro, cintura nera di relazioni sul lavoro, ma tu stai lavorando su di te per essere bravo a relazionarti, cosa stai facendo? Stai leggendo i libri, stai facendo un percorso con qualcuno di più esperto di te, stai provando, sperimentando, cercando di fare delle cose diverse, quindi prima di tutto lavora su di te. Ci stai dando una brutta notizia. Mi spiace, non è così bisogna facile. Bisogna impegnarsi. Esatto. È arrivato subito Manera, allora spacciato, ti giuro, guarda, è arrivato, guarda, adesso così è arrivato, impresa diretta. Però ad esempio ci sono anche dei consigli concreti e pratici, sì. Per esempio uno, sì, classico, come ottenere l'aumento, udite cari italiani, cari italiani, io che più o meno conosco già come la risposta, ottenere l'aumento è un modo che tutti possono, diciamo, adottare, un sistema che tutti possono adottare, sì, che Leonardo una volta mi aveva anticipato. Ma Luca Mazzucchelli, prego, come si va dal superiore, direttore personale, a chiedere l'aumento? Allora, innanzitutto è una questione anche di tempismo, no? Cioè tu non è che puoi in qualsiasi momento andare lì e chiedere l'aumento, ci vuole l'aumento giusto, quindi devi conoscere bene la tua azienda, avere un minimo di consapevolezza sui conti, sui numeri, ci sono questi soldi, non ci sono, perché se non ci sono è inutile che tu vada lì a chiederli. Ti bruci anche, ti bruci, quindi prima di tutto tempismo, poi mettere bene in evidenza quello che è il tuo vero valore aggiunto che porti alla situazione, e deve esserci, cioè tu hai lavorato per renderti indispensabile in quel contesto nel corso degli ultimi mesi, anni, oppure hai vivacchiato e tu... Perché ridi, Leo? Perché mi piace l'idea di uno Leo che vivacchia e poi va a chiedere l'aumento. Leo vivacchia, ci sono, Leo, no? ciondola al bar. E quindi ecco, mettere bene in evidenza quello che è il tuo valore aggiunto che hai portato, e poi quindi di conseguenza tu puoi chiedere un aumento. E attenzione, pronto anche magari non ad avere necessariamente un aumento economico, ma magari una merce di scambio diversa. Sì, ma Leonardo me l'aveva raccontata anche con un particolare. Sentiamo. In più, l'ultimo forse, che non è forse il che per avere l'attenzione del capo non devi partire immediatamente parlando di te, ma devi insomma cominciare Bravo. Parlando un po' di lui, adulandolo un po', prostrandoti, strisciando, dicendo, fare lo zerbino, ecco. Sì, lo zerbino, dicendo che è una bella cravatta, che è vestito bene, che lui ha portato un valore aggiunto all'azienda. Certo. Allora ragazzi, nelle se già non lo fa lui di parlare di le sé. Le relazioni che funzionano sono le relazioni all'interno delle quali l'uno fa il tifo per l'altro. Cioè, se tu non hai la maglietta dell'azienda, è più difficile che l'azienda poi riesca a fare il tifo per te. E viceversa, chiaramente, no? Però se noi vogliamo avere l'attenzione degli altri, dobbiamo far sentire agli altri che teniamo a loro e quindi anche che li ascoltiamo. Luca Mazzucchelli, grazie davvero per i consigli che ci hai dato. Ora sappiamo come chiedere con successo un aumento e possiamo andare al traffico. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, cari ascoltatori, per concludere questa prima ora di Uno Nessuno 100 Milan, ma stiamo con voi fino alle 11, quindi tranquille, caro Leonardo... Sai che bello, farò psicologo come sì. Luca Mazzucchelli. Perché? Anche a me piacerebbe. Guarda, io vorrei iscrivermi a psicologia e filosofia prima di... Non hai finito una laurea, comincia a farne una alla volta. Sì, già psicologia e filosofia. Io sono un umanista, mi sento umanista come sì, persona. Quindi sì, potrei, dopo 7 esami di giurisprudenza, potrei farne 2 di sociologia, 1 di filosofia, così divento. E 3 di psicologia, li metti insieme e c'hai una laurea, tu dici. Questa è una buona idea, sì. Perché no? Un po' di tutto. Ma perché no? Una laurea in tuttologia, per l'appunto. Una cultura enciclopedica, non sì, definitiva, ma comunque enciclopedica. Vabbè, il buon Leonardo Manera ha deciso in quest'ultima settimana di trasmissione di 2 ore, anche se ci sarà poi un meglio di in agosto, un po' più ridotto, versione mezz'ora. Comunque. E poi cosa c'è nell'altro tempo, senti, che occupavamo, non lo so, noi? Ci sono dei tuoi spettacoli. Tu che sei qui un senatore, dai, di Radio ma 24. Ma che cos'è quest'estate? Ah, condotto da? Elisabetta Fiorito. E di cosa parla? Non solo, ah, non di notizie solo. Beh, sempre. Insomma, di notizie. Che cosa parla? Adesso vuoi le scalette di tutto agosto? Ma chiama Elisabetta Fiorito e i colleghi e le colleghe e fatele dare in attesa. Ma Elisabetta Fiorito è nata in primavera? Allora, signori, andiamo avanti, perché quando l'ha è nata Elisabetta Fiorito? L'ha detta, non so la data. Informati. Di nascita. Sfida Luchetti. Tu che sei un senatore. Sfida Luchetti la data di nascita di Elisabetta Fiorito. Comunque, tu che sei un senatore. Sì, no, un senatore no, non neanche onorevole. Aprile, maggio la Fiorito. Può essere, guarda, ne sono assolutamente certo, sarà senza dubbio così. Sappiate che il buon Leonardo Manera, invece, per non farvi neanche per mezzo secondo non pensare al coronavirus, ha deciso da questa settimana, da lunedì, a raccontare un po' tutti questi mesi condensati, sì, con le per parole tenerci chiave. allegri, ma non è un pezzo amaro, non è un pezzo amaro, anzi. Io non faccio mai pezzi amari, mai. Infatti chiederei la base allegra, grazie. Allora, un'altra delle parole chiave di questo periodo è stata pane. Perché stando sempre in casa le persone passavano molto tempo a cucinare, nei supermercati andavano a ruba farina, lievito madre per fare pane e pizza fatta in casa, ed è la grande rivincita dei carboidrati. Il carboidrato che per anni ha subito il distaccato disinteresse, soprattutto da parte femminile, si è preso la sua rivincita. Ormai a mangiare pane erano rimasti solo i ghiottoni che amavano accompagnare ogni pietanza con dei gustosi bocconi di pane,

maneggiata da un pizzaiolo esperto e delicato che la possa massaggiare, eliminando ogni tensione. Sogno di incontrare una birra dorata che l'accompagni dal palato fino al tubo digerente, prima di scontrarsi e combattere con gli acidi e i succhi gastrici dello stomaco. E poi sogna la farcitura, una mozzarella filante che fa gruppo, un pomodoro delicato e sensibile, un'acciuga estroversa, un salame piccante, impulsivo ma in fondo schietto, un filo d'olio senza troppa acidità che rovina i rapporti, finché poi la pasta della pizza si sveglia dal riposo e non sempre i suoi sogni si avverano. Può incontrare un pizzaiolo poco delicato e che va per le spicce, un forno troppo caldo o troppo freddo per accogliere il nudo impasto, e invece di un bel salame piccante un prosciutto cotto sì, ma alla lunga poco interessante rispetto a un bel salame piccante. Insomma, la vita della pizza è proprio come la vita dell'uomo: quando si riposa si sogna, quando ci si sveglia ci si scontra con la dura realtà. Per questo la pizza è così popolare, perché in fondo ogni pizza è il riassunto di tutte le vite. Beh, ma stupendo, ragazzi, la pizza come metafora della vita è meravigliosa, devo dire. So che non lo pensi, ma ti ringrazio. No, invece lo penso veramente io. Carapina, ti stimo tantissimo, come diceva Fantozzi. No, è veramente meraviglioso. Bravo Leonardo, hai lanciato anche una sfida a Luchetti, hai detto la battutaccia, insomma, è venuta male su Elisabetta Fiorito, ma noi chissà, forse nella seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan sveleremo l'arcano, sveleremo, vai! I campioni dello sport, le loro storie e gli autori che le hanno raccontate. Sono Dario Ricci e a luglio vi aspetto ogni domenica alle 16.30 e in podcast a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport, per leggere insieme i grandi libri della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Signori, siamo qui la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Allora, caro Leonardo Manera, vogliamo ricordare come in maniera impropria hai concluso la prima ora con un quesito che ti attanaglia. Mi chiedevo se Elisabetta Fiorito è nata in primavera, visto il cognome. Beh, visto il cognome non dovevi specificarlo, sennò la battuta si depotenzia un po' così. Sì, ma io devo sempre... Ridilla bene. Ma la Fiorito è nata in primavera? Elisabetta Fiorito! Ciao, allora, Alessandro, la domanda non è difficile la domanda. No, non è difficile, allora dirò che sicuramente però lavorerò d'estate. Sì, quindi, vabbè, è questo, e certo. Quindi vi aspettiamo. Ma quando sei nata? Sono nata in inverno in realtà. Ah, hai visto? A febbraio, a fine inverno, a febbraio, e quindi poi è quasi subito arrivata. Quasi primavera. E poi è arrivata la primavera e noi comunque vi diciamo accompagneremo quest'estate. Noi perché da lunedì prossimo, caro Alessandro, Laura Bettini inizierà questa maratona estiva di Ma cos'è quest'estate, poi ci sarò io le due settimane centrali di agosto e poi ci sarà infine anche Giulia Crivelli, quindi un'estate tutta al femminile su Radio 24. Stupendo, ti fanno lavorare a Ferragosto. Certo, e ti dirò di più, e mentre Manera sarà al mare, orario. Sì, certo, eppure dalle 9:30 Leonardo ci rubano anche lo spazio, assolutamente, ma tanto Manera non gli rinnoviamo il contratto, quindi già lo cacciamo, cioè, lo ma cacciamo, no, ma così. Perché no, assolutamente deve tornare, però mentre voi sarete in spiaggia noi parleremo di attualità come fai sempre tu anche, e poi un po' di politica e approfondiremo i fatti del giorno, perché sai, Radio 24 non va mai in vacanza, tu certo. Sì, però Anche Leonardo. Ma io non sono un giornalista, io posso andare in vacanza comunque quando voglio. Qui Alessandro Milan, che dovrebbe rimanere sul pezzo, sull'attualità anche d'estate, invece per più di un mese. Ma io sarò sull'attualità accendendo Radio 24, ho capito? E ascolterò Elisabetta, Laura, Giulia. Anche perché in un'estate italiana tutti quanti si possono collegare con noi e ascoltarci anche in spiaggia. No. Comunque abbiamo svelato l'arcano. Non sei nata in primavera, è incredibile, cioè guardate che è un grande scoop questo di Radio 24, ma quasi, Complimenti per la voce, Elisabetta, se posso, che è molto gradevole anche. Inizia sempre così, Elisabetta, no. Poi diventa un po' più molesto. No. È tipico, maniera. Ma dove abiti esattamente? A Roma? Sì. Ma di che quartiere sei? Ma se capito a Roma una volta, magari un aperitivo, è fatto così. Sai come si chiamano questi a Roma? Come? Molliconi. I molliconi. Anche detto ermollica, perché capito, fa il morbidone come la mollica di pane. No, sono sincero, mi sono sentito di fare un complimento che sgorgava naturalmente dal cuore. Tra l'altro, grazie infinite. Tu non lo sai, ma poco fa ha proprio fatto tutto un pezzo sul pane come elemento centrale, quindi ermollica ci sta benissimo, cioè proprio lui è ermollica, Sì, sai, a Roma si danno sempre questi soprannomi, no? Se uno va un po' d'aceto è ercicoria, capito? Quello lì che ci prova un po' ermollica. Ermollica è perfetto. Grazie Elisabetta Ferito. Devo trovarne una per te, Alessandro. Mi raccomando. Ci penserò nell'estate e poi te la dico. Va bene. Ma te Erbiondone. Vabbè, dai, Erbiondone ci sta. Grazie Elisabetta, da lunedì alle 8, alle 9.30, dalle 8 alle 9.30, non Elisabetta Fiorito, prima Laura Bettini, ma poi insomma vi date la staffetta come Mazzola e Rivera, Mazzola e sì. Rivera, ti dice qualcosa? No, guarda, lo sport non è proprio diciamo così, non so, magari Ofelia, che ne so, Cordelia, sì, ma Mazzola e Rivera, Grandi saluti anche da Ermollica, grazie Elisabetta Fiorito. E allora, cari ascoltatori, torniamo alle questioni di attualità, torniamo seri. Certo che dopo che ti hanno nominato Ermollica. Ma io vorrei capire, non ho capito perché la mollica viene associata a quello che ci prova. Non lo so, perché sei morbidoso, così no. Cerchi di prenderti i tuoi spazi. No, forse si appiccica, dice Lorenzo. Cerchi sì di metterla nel sughetto, così. Cerchi di pucciare la mollica nel sughetto. Io devo ringraziare poi privatamente Elisabetta Fiorito, mi ha dato uno spunto ermollicone. Perché al nord si dice più provolone, forse anche al sud. Sì, un provolone. Invece il mollica ti dà l'idea che c'è lì il sughetto e din din din, din si avvicina un po'. Per... Va bene. Ora, Leonardo, è venuto a trovarci in studio il nostro astronomo preferito, anzi astrofisico, Luca Perri, che ha scritto per De Agostini il libro intitolato Partenze a razzo, tutto ciò che c'è da sapere prima di diventare un astronauta. Io leggo alcune cose. Per esempio, se andate nello spazio, sappiate, per prima cosa, l'orecchio, il labirinto vestibolare, non capisce più cosa è sopra e cosa è sotto. Quindi niente senso dell'equilibrio per un po'. All'inizio addirittura non si capisce bene dove stanno gambe e braccia. E poi, siccome siamo fatti d'acqua, due terzi del nostro corpo, l'acqua nello spazio va un po' dove capita, quindi ti svegli, c'è l'effetto Charlie Brown, Leonardo, cioè magari c'è la facciona gonfia, oppure si svuotano le gambe d'acqua, oppure, non parliamo della nausea, o il cuore, il sangue perde plasma e globuli rossi, il cuore, non dovendo contrastare la gravità, rallenta il battito, insomma è un disastro, Luca Perri, perché sì, sì, fa malissimo, cioè dal punto di vista fisico è terribile, anche gli occhi ne risentono, la spina dorsale perché in assenza di peso, quindi quando tutto galleggia ci si allunga fino a 5 centimetri e uno dice bello, gioco a basket, però mi stiro anche i nervi spinali, quindi non è che faccia proprio benissimo. Insomma, ci vuole un fisico bestiale. Ci vuole un fisico bestiale per andare e per sopravvivere, faccio presente. Luca Parmitano ha avuto un grossissimo problema nella sua prima missione in cui ha fatto una cosiddetta passeggiata spaziale e stava rimanendo annegato nello spazio, stava per annegare nello spazio perché gli si è rotto un tubicino del liquido di raffreddamento della tuta e quindi aveva dell'acqua nel casco ed è sopravvissuto perché sa trattenere bene il respiro, quindi cioè è andato, diciamo, in apnea, proprio andato sott'acqua. Sì, sostanzialmente quest'acqua continuava a coprirgli le orecchie, gli occhi, il naso, la bocca e quindi lui a tastoni proprio è ritornato all'interno della stazione spaziale erano molto preoccupati perché ha dovuto veramente in alcuni momenti trattenere fortemente il fiato. Tra l'altro tutti gli astronauti che hanno questo tipo di esperienza raccontano che poi succede quasi sempre qualche inconveniente e quindi è sempre molto pericoloso. Lui deve portare avanti questa missione. Manera dovrà cercare di scoraggiarvi assolutamente a fare l'astronauta. In realtà tu, Luca Perri, come scrivi nell'introduzione, hai sognato da piccolo, farò l'astronauta, sì, andrò sì, nello spazio. Assolutamente l'ho sognato, poi mi sono reso conto che non ce l'avrei mai fatta e quindi ho deciso di fare l'astrofisico perché era più realistico del fare l'astronauta, insomma. Ma guarda che tra l'altro, Leonardo, come fai a non capire, cioè spiegare i misteri dell'universo, perché sono misteri per lo più per sì, tutti noi che non abbiamo studiato, spiegare come però, è nato l'universo, però. Cioè, è anche per chi è vero studiato, che chi poi... sì, certo. E infatti il problema è quello che più ci si addentra in quei misteri, più si scopre che c'è ancora da scoprire, a quanto dicono tutti, quindi è fondamentalmente bello, inutile. Ecco. però la scienza funziona così, si trova una risposta che dà altre 9.000 domande. Vabbè, allora, siccome Manera non ha studiato, interroghiamolo. Nel primo capitolo racconta Luca Perri quali sono gli animali, questo è facile, dai, il primo animale che è andato nello spazio, questo lo sa. Vabbè, questo è facile, dai. Il cane, che poi anche il cane... Non è vero, il cane risposta poi... sbagliata. Risposta sbagliata. Non era il cane, non era Laika, no. Pensa, non si chiamava nemmeno Laika. Non si chiamava Laika. Laika era il nome comune, diciamo. È un criceto. No, è un criceto. Smettila. No, erano i moscerini della frutta. I moscerini della frutta. E perché mandare nello spazio i moscerini della frutta? Perché intanto sono leggeri, ne posso mettere tanti a bordo del mio missile, perché era un missile, il V2, praticamente era un ex arma tedesca sequestrata appunto dopo la seconda guerra mondiale, e poi i moscerini in realtà sono un animale particolarmente simile all'uomo, non si direbbe, ma geneticamente parlando non siamo poi così diversi, e soprattutto le malattie che abbiamo noi esseri umani le hanno anche i moscerini spesso e volentieri, quindi sono un animale interessante da studiare. E tra l'altro, se ho capito bene, c'è un limite massimo per rimanere sotto una soglia di rischio nello spazio, cioè quant'è che il massimo sopportabile per anche il fisico maggiore? Allora, diciamo che per stare al sicuro bisognerebbe rimanere su meno di 6 mesi più o meno, quindi infatti mesi. La missione sempre nella vita? No, allora, diciamo che il problema è legato alle radiazioni che si subiscono, diciamo, nello spazio. Sono tantissime, sono centinaia di volte quelle che subiamo a terra. Quindi le missioni consecutive, più di 6 mesi consecutivi, si tendono a non farli, a meno di missioni spaziali particolari con esperimenti spaziali, perché poi gli astronauti, non l'abbiamo ancora detto, sono delle cavie, cioè fanno degli esperimenti su di loro, quindi certo. Qualcuno ha testato anche per permanenze più lunghe, e la cosa peggiore è stato il caso di un cosmonauta sovietico che non poteva scendere perché c'erano problemi in Unione Sovietica sostanzialmente, sì. Quindi problemi politici e della società russa, e quindi è rimasto fin troppo nello spazio, detiene tuttora il record come permanenza non consecutiva, è stata quasi 3 anni in totale fra le sue missioni nello spazio. E sì, non si sa poi. E poi ha avuto problemi esatto, di qualche tipo? Quando... Allora, lui nello specifico pare di finalmente. No, esatto. Lui pare di no, però la cosa interessante è che secondo la relatività di Einstein lui è invecchiato precocemente di un 48esimo di secondo rispetto a noi, però questo perché il suo tempo scorreva diversamente, no, però... perché come ci scrive un ascoltatore, sto Luca Perri è proprio interessante, insomma è uno scienziato, voglio dire, oltre... perché mi ha sentito poco no è perché racconta in maniera anche leggera, molto ironica, visto che ci sono poi anche le illustrazioni di Marco Tabiglio, questo mondo così affascinante. Facciamo così, Luca, ci fermiamo per le informazioni sul traffico, ma rimani con noi perché subito dopo rientriamo e continuiamo a chiacchierare. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Uno, nessuno, 100 Milan. And I think it's gonna be a long, long time to touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out of fuse out there at home. Rieccoci qui a Uno Nessuno Centomila. Allora, cari ascoltatori, sappiate che Luca Perri durante la pausa ci stava raccontando delle curiosità incredibili. Per esempio, atterrare quando rientrano dallo spazio, sì. Come atterrano? Male, schiantandosi sostanzialmente. Oggigiorno si atterra, ecco, con le Soyuz, queste capsule, sì, che si schiantano a 40 all'ora, quindi insomma frenano il più possibile. Comunque loro arrivano dallo spazio a una velocità che è di qualche chilometro al secondo, quindi bello veloce, frenano il più possibile con dei paracaduti, frenano anche con dei cosiddetti retrorazzi, ma poi alla fine si schiantano a 40 all'ora. Si schiantano. È vero che, come si vede nei film, che quando si rientra in atmosfera c'è questo surriscaldamento nella capsula? Sì, sì, quello è vero. E tra l'altro il primo uomo a rientrare in atmosfera, che è Yuri Gagarin, cioè il primo che è andato nello spazio, sapevano che ci sarebbe stato un po' un surriscaldamento, ma ad esempio non avevano idea che si vedessero proprio delle fiammate. Poi all'interno della capsula hanno iniziato a vedere del fumo. Insomma, Yuri Gagarin si è convinto di stare bruciando e quindi ha salutato tutti via radio calorosamente. Sì, sì. No, beh, tutto questo è raccontato nel libro, come sono raccontati ammutinamenti, racconti di gente, astronauti che a un certo punto stressati dicono il collegamento con la TV fatevelo voi, perché è una vita... Possiamo dire una vita di... Sì, sì, possiamo dirlo. All'interno della... Mi raccontava, per esempio, senti un po', Leonardo, come si dorme. E tu immagina di dormire così. Si deve dormire con un sistema di areazione forzata, quindi diciamo un ventilatore davanti alla faccia, perché altrimenti nello spazio, in assenza di peso, l'anidride carbonica che noi espiriamo si concentrerebbe tutta attorno alla testa a formarci un casco di anidride carbonica e quindi soffocherebbero nel sonno. Ti immagini a dormire con un bel ventilatore? Sì. Non so se vi rendete conto che state confermando tutte le mie teorie, sì, cioè che infatti, è meglio evitare. Ma infatti il tema è questo: Luca Perri, che ama talmente la propria materia di divulgazione, è un divulgatore scientifico molto, uno dice ma uno legge il tuo libro e tutto mi viene voglia nella vita tranne che dire figlio mio fai l'astronauta. Parti per lo spazio. No, l'idea è che in realtà, se si vuole essere onesti a livello scientifico, bisogna raccontare le cose belle, che sono quelle che vediamo in televisione, ma anche le cose brutte, perché uno deve essere consapevole. Ma la cosa che secondo me traspare poi alla fine del libro è che io parlo di tutte le cose veramente più brutte che mi vengono in mente, ma alla fine c'è la mia forte invidia del fatto che io non faccio l'astronauta, perché, come dicevo prima, l'uomo da sempre ha la curiosità di scoprire ciò che lo circonda e siamo curiosi. Gli scienziati seguono la curiosità, non seguono l'applicazione pratica delle loro scoperte, e quindi in fondo chiunque appassionato di scienza vuole scoprire ciò che lo circonda, e credo, certo, che alla fine tutti vorrebbero davvero fare, per l'astronauta. Esempio, arriva una domanda, ma io so già la risposta, ma perché ho letto il libro mi bullo con gli amici. Chiedete la conferma del fatto che, stando nello spazio, le ossa si decalcificano per via dell'assenza di gravità, in quanto l'organismo tende a eliminare ciò che non serve più. È vero, hanno un'osteoporosi sostanzialmente da spazio. La cosa peggiore è che non abbiamo ancora capito quanto e se è reversibile. Quindi sappiamo che perdono calcio nelle ossa, ma non sappiamo quanto si possa sistemare. Questo calcio si può trasformare in calcoli anche renali, che io li ho provati, sono poco piacevoli. Ma allora, cioè, praticamente fai un mese nello spazio e il resto della vita in ospedale. Diciamo che però sei ben preparato, sai, sì, un fisico ben allenato. Comunque Luca Parmitano fa gli Ironman, quindi riesce comunque a essere un atleta. Raccontavi prima, a proposito dell'atterraggio, di un altro astronauta italiano che ha detto: l'esperienza più simile che ho provato, assimilabile all'atterraggio, è stato un frontale a 200 all'ora su un guardrail. Sì, Maurizio Cheli, un astronauta italiano, uno dei primi astronauti italiani, ha proprio descritto l'atterraggio delicato come uno scontro su un guardrail. Quindi Leo, tu che ti lamenti dei tuoi voli aerei, sappi che atterri sul velluto, praticamente atterri morbidamente rispetto all'atterraggio di un astronauta. Non non sempre, comunque io sono talmente terrorizzato che qualsiasi atterraggio poi mi va bene, basta toccare terra. Però la cosa importante sono gli esperimenti scientifici, no? Poi c'è qualche applicazione importante? Beh, che è stata fatta sulla Terra. Applicazioni tante, veramente decine e decine di migliaia. Solo dal programma spaziale Apollo, quindi solo dai viaggi verso la Luna, noi abbiamo ricavato oltre 30.000 brevetti di tecnologie che utilizziamo più o meno frequentemente, sì, sulla Terra. Dalle gomme da masticare, ad esempio, alle celle a combustibile delle auto ibride. La microelettronica è nata per il programma Apollo, quindi se noi abbiamo i portatili è legato a quello. Le tecnologie alla base del cellulare, le tecnologie alla base dei satelliti, i pacemaker nascono dalla miniaturizzazione dei sensori biometrici degli astronauti, quindi veramente tantissime cose. Allora, ci sono tante, tante curiosità. Allora, molti chiedono il titolo del libro, adesso lo ripeto perché ovviamente Partenze a razzo di Luca Perri, edito da Diagostini. C'è anche, e non pensate che Luca abbia trascurato questo aspetto, c'è una domanda: ma scusate, ma dove fanno la pipì e la cacca? C'è un capitolo intero dedicato a questo, un capitolo intero. E se leggete questo e volete poi fare gli astronauti, davvero, io sto dalla parte di Leonardo. Sì, Manera. Sì, quello è un forse capitolo, la cosa che distanzia di più dal sogno di fare l'astronauta. Sì, perché però poi andrà disperso nello spazio tutto quanto, immagino, no? Sì, sì, parzialmente, alle volte lo fanno rientrare a terra e diventano stelle cadenti. Sì, sì, questa ce l'aveva già detto una volta. Quindi quando noi esprimiamo un desiderio, in realtà esatto, sono le feci degli astronauti. Sì, se non si avvera adesso sapete il perché. Sì, a volte, ecco, questa ce l'aveva già detto un'altra volta, è la distruzione di tutta, tutto il romanticismo. No, in realtà leggete questo capitolo, e oltre al libro, è veramente inquietante, perché sì, a volte con l'assenza di gravità, se uno soprattutto ha dei assenza problemi... Assenza di peso, assenza di peso, non diciamo gravità, no, che no, poi... No, assolutamente, mi viene una domanda, subito però mi corregge, viene una domanda. Prego, prego. Vai. Se diventano stelle cadenti queste, ma quanto sono grosse? Sono, allora, le stelle cadenti della notte di San Lorenzo sono granelli di sabbia come dimensione, invece quelle, le cacche, insomma, degli astronauti sono raccolti in barilotti da 10 kg, quindi sono delle stelle cadenti belle luminose. Le più luminose? Le più belle, guarda amore! Guarda amore, una stella cadente così non si era mai vista, è un bel barilotto. Esatto, lì. C'è da dire che di solito le sganciano sul Pacifico, quindi sì. No, ecco, poi arriva la domanda di, non so, un seguace di Cruciani: si potrebbe fare sesso in orbita? Allora, la questione è spinosa, nel senso che ufficialmente non si è mai provato, ma in realtà non ci crede nessuno, ecco, a questa cosa. Lì per esempio Leo Manera potrebbe prendere parte a una missione particolare solo per fare quello, però pare che sia complicatissimo sempre dal punto di vista medico, perché la circolazione sanguigna è differente rispetto, certo, a quella sulla Terra, e quindi ad esempio si concentra tutto non nelle zone periferiche il sangue, ecco, e questo è il primo problema, nelle zone che contano. E poi sostanzialmente i colpi che si subirebbero nell'atto potrebbero essere pericolosi. Va bene. Non c'è neanche un minimo di gioia, non c'è neanche quel momento di felicità, ammesso che sia felicità poi. Allora, noi Luca Perri lo dobbiamo liberare, lo ringraziamo tantissimo. No, ma leggete, perché al di là di tutto, come dire, ha voluto demolire, mettendo in luce gli aspetti negativi, poi tutto con anche le illustrazioni di Marco Tabiglio sono molto, molto spassose, però c'è un grande amore e invidia verso chi è diventato assolutamente invidia soprattutto. Luca Perri. Dai, Partenze a razzo, lo trovate in libreria. Noi davvero ringraziamo Luca Perri, e noi, Leonardo, andiamo a sentire le informazioni sulla borsa, rientriamo subito dopo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Allora, io ho ancora negli occhi il terrore di Leonardo Manera quando sentiva parlare qui Luca Perri di astronauti, di cosmo. Ma perché tu qua, a che altitudine cominci a inquietarti? Giusto per sapere. Non è una questione di altitudine, io comincio a inquietarmi se ci sono turbolenze leggere, sì, perché le turbolenze forti non mi preoccupano. La turbolenza forte, io do già per assodato che è finita. Quindi sei già con l'animo in pace. Sono con l'animo in pace. È la turbolenza leggera che dura per tutto il viaggio, che mi fa temere che potrebbe peggiorare. Quindi non è legato all'altitudine, non è legato al volo in sé, è proprio la turbolenza leggera. La definirei una turbolenza psichiatrica. Una leggera turbolenza psichiatrica, che ne dici? Mentre ad esempio quando sono in volo con mio figlio dice speriamo che adesso diventi di più. Ma perché lo fa per te? Perché lui si diverte come se fosse un toro meccanico, e io dico anch'io, dico speriamo, come dire, però invece lì quando c'è la turbolenza leggera mi preoccupo davvero, a volte... Vogliamo alleggerirti, dai, perché dopo spero tanto... sempre sì? di trovare accanto a me qualcuno che sia preoccupato quanto me. Così almeno ci possiamo confortare a vicenda. Ma è comune mezzo gaudio. Sì, io spero sempre trovare uno che teme il volo. Allora, vogliamo riportarti un po' di serenità, di leggerezza. Perché abbiamo scoperto questa carriera, questa paracarriera, questa carriera parallela di Leonardo Manera, cioè Leonardo che in realtà ha un passato da cantante, cantautore stupendo. Io ho anche il CD qua, ho un CD tutto rosa di un singolo tuo dal titolo Mastella. No, è un... perché ce l'hai con Mastella? No, è una canzone che risale circa 10 anni fa. L'avevi con Mastella? Ma no, sì. Ma come no? Mi piaceva il titolo, è dedicata a Mastella, perché forse Mastella... in quel periodo si parlava molto di Mastella e anche in generale della politica come casta. E allora tu hai identificato Mastella come emblema della casta e hai detto Mastella no, che ce macigno. L'hai con Mastella? No, era in quel periodo si parlava della casta, non so se di Mastella in particolare per qualche motivo, non ricordo nemmeno più il signori, motivo per ho cui... il CD, potete trovarlo ancora, quindi il CD, forse su Amazon, forse sulle piattaforme, Mastella, non credo nei negozi, Mastella no. Che questo... anche... si può dire Mastella come politico oppure Mastella come dire Mastella, no? Pastella anche come Ustella, sai che si dice nel dialetto milanese. Mastella, no. E quindi si può leggere in entrambi i modi e dire in entrambi i modi. Quanti dischi hai venduto? Cos'è? D'argento? Sette cose? Sette copie, credo. Sette copie, pochi parenti, eh? Vabbè. Però Mastella, no, mi dicevi che è passata anche in qualche radio. Guarda com'è questa persona. Guarda. Invece di elogiare, critica. Ma spot. Ti sto talmente elogiando che se andate a comprare Mastella, no, ancora a vita, a distanza passerete di 10 anni. I diritti andranno a Leonardo. Di che anno è? Di che anno è? C'è scritto di che anno è? Non sai tu di che anno è. E non ricordo, credo 2011, allora, una cosa così più o meno. Mica è come un libro che apro la seconda di dovrebbe essere anno di stampa 2007. Ah, è del 2007. Vedo un 2007 con la mia miopia. 2007. Vabbè, ma vogliamo sentirla? Mastella, no? Vogliamo sentirla? È un reperto, ormai è un reperto archeologico di 13 anni fa. Senti qua, Mastella, no. Intro sempre rock. Sempre con rock. Gli inadatti, con gli inadatti alla parte musicale, che sono la mia band di riferimento. Fiori di rosa, fiori di pesco, tu mi costi troppo, non esco. Italia bella, Italia cara, Italia je t'aime non più. Ferie d'estate, ferie d'agosto, ombrellone, pizza, lettino. Quattro gelati, un cappuccino, lo stipendio non ci sta più. Mastella non lo sa, ma noi che siamo qua, noi non abbiamo le mani bucate. Mastella no. Mastella non lo sa, ma noi che siamo qua, abbiamo le banconote contate. Sono delle voci femminili, sento. Federica Vino. Noi non crediamo più nelle fatte. Mastella no. Mastella non lo sa, lui vive a Ceppaloni, ma noi ne abbiamo pieni. Passa l'estate, passa l'autunno e non c'è più la mezza stagione. Rogati. Sono pessimista più. Leopardi e mille colozzi baldoni. Neve d'inverno, Babbo Natale, settimana bianca slittino. Due cioccolate, un cappuccino, lo stipendio non ci sta più. Mastella non lo sa, ma noi che siamo qua, abbiamo il frigorifero vuoto. Mastella no. Mastella non lo sa, ma noi che siamo qua, speriamo sempre di vincere all'otto. Un jacuzzi terribile contro Mastella, lo odiavi. Giochiamo solo nell'interfondo. Ma no. Adesso qui c'è tutto il contro la casta. Ah, attenzione. Auto blu. siamo pieni di auto blu. Se diventi un portaborse pure tu, puoi sederti subito su un auto blu. Auto blu, auto blu, sono 500.000 o anche più. Sfrecciano nel traffico dove sei tu, sfrecciano nel blu dipinto di auto blu. Ma Stella non lo sa, ma noi che siamo qua abbiamo le fidanzate arrabbiate. Ma Stella no. Ma Stella non lo sa, ma noi che siamo qua abbiamo le case ipotecate. Ma Stella no. Ma Stella non lo sa, ma noi che siamo qua abbiamo già le cinghie tirate. Ma Stella no. Ma Stella non lo sa, ma noi che siamo qua abbiamo le piste capinite. Aio! No, no, veramente è un jacuzzi durissimo, durissimo. Grande pezzo manifesto rock, politico contro la casta. Rock. Sentiamo. Ma Stella non lo sa, ma noi che siamo qua, noi non abbiamo le mani bucate. Ma Stella no. Ma Stella non lo sa, ma noi che siamo qua, abbiamo le banconote contate. Ma Stella no. Ma Stella non lo sa, ma noi che siamo qua, noi non creiamo più nelle fate. Ma Stella no. Ma Stella non lo sa, lui vive a cefaloni, ma noi ne abbiamo pieni. Canzone l'abbiamo fatta noi, la rima fatela voi. Signori, con il finale degli inadatti, solita chitarra spaccata. Ma ragazzi, ma cosa ci fai tu con questo? Perché hai imbracciato un'altra carriera poi a un certo punto? Sai, alla fine c'è sempre un declino. Quando ho iniziato qui a lavorare con te, quello è stato l'inizio del declino. Io vorrei chiedere a un grande, grande esperto della discografia italiana, il grande Anacleto. Anacleto, ma tu ti rendi conto? Ciao, buongiorno Anacleto. Buongiorno a tutti, agli ascoltatori. Buongiorno e buon giovedì a tutti. Ma senti un po', ma l'hai sentito? Ma l'hai sentito? Allora, siccome avevo uno stimolino, no, per andare al gabinetto, ora, sentì quella canzone, fa veramente cacare. Poi un'altra cosa, aspetta, voi mandate in onda, innanzitutto mi hai chiamato giovedì, di solito il venerdì, si fa tutti i saluti. Eccetera eccetera. Sei cattivo però, sei cattivo, guarda che Leo ci rimane male, guarda che questa è anche una bella canzone musicalmente. Fa veramente cacare, questa non ha bisogno, anche se Grullo per davvero, non esiste sulla terra una canzone brutta così, non l'avevo mai sentita in vita mia, come piscina mia, l'altra sera vedi Leonardo con quella giacchettina celeste Peachwork, sei tutta costata lì. Zelig, sono una sega, quel canale di Zelig TV, canale 63 TV. Del digitale terrestre. Sì. Bravo. No, cioè, ma voi gli mandate questi dischi, queste cose, perché lui è senza soldi, lo dice lui, io ci credo. Sì. Per fargli fare le ferie, per vedere se qualcuno ma vai a comprarlo, parla a tutti di Mastella. No, Mastella, ma tra l'altro mi sembrava una cosa molto, molto, molto bella. Ma perché ce l'hai con Leonardo? È una bella canzone. Non vuole una canzone brutta o sì, non esiste sulla terra, ma neanche a pagarla. Va collocata storicamente nel 2007 quando è stata fatta. Dai, senti, c'è un misto di Lucio Battisti, di Fiorinosa Tradiverso. Io l'ho trovata. Paloma, e poi quello che saltava negli anni 80, ora non mi ricordo il nome, Dio santo. Era un cantante che saltava Ciaccherini, come si chiamava? Dì a lui che se lo ricorda. Sì, ho capito che quello che faceva anche Arlecchino. Come si chiamava? Ho capito che si riferisce, ma non ricordo neanche il nome. Sì, c'è un ritmo che ha sempre. Lui faceva rock bambolina, rock bambolina. Sì, Alberto Camerini. Bravo, bravo, due. Allora un grandissimo Leonardo Manera, ma cosa stai dicendo? Vabbè, Anacleto, dai, ti dobbiamo fare buone vacanze alla Chiesina. Buone vacanze a tutta Chiesina. Questa è la verità. Ti dobbiamo salutare. Niente, mi ha distrutto Manera. Io invece sto con Manera in questo caso. La canzone è bella, gli arrangiamenti ottimi di Federica Vino. Vedo che era anche sulle auto blu, si accomodava con piacere. Quella è la parte preferita tua, dove ci sono questi gemiti di Federica Vino. I gemiti di Federica Vino, che saluto, tra l'altro è anche una bravissima cantante. E certo, infatti l'abbiamo sentita. Certo, si è dovuta accontentare di fare il coro la tua canzone. Ma Stella no, una hit del 2007. Vabbè. Hit del 2007, l'ha trovata ancora però. Ma Stella no. Andiamo al traffico. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Uno, nessuno, 100 Milan. I don't practice Santeria, I ain't got no crystal ball. Senti che ritmo, senti che ritmo. Potresti prendere spunto, caro Leonardo, per la tua, il tuo tratto di carriera finale. Ma io con Mastella No sono già a posto, ho già dato il meglio io con Mastella No della mia parte musicale. Va bene, va bene. Adesso in nome dell'arte è venuto a trovarci un graditissimo nostro amico, ex imprenditore per la verità, ricordiamo, riciclatosi un po', il nostro grande Nero Nello. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. Oggi, diciamo, vorrei fare un recap di alcune mie favole precedenti, quindi evitando tutti i preamboli e andando direttamente a ricordare alcune delle mie prime favole, le favole del clown Nero Nello, che così tanto successo hanno avuto presso gli ascoltatori di Radio 24. Quindi rievocare quel tratto iniziale della mia esperienza qui, che magari non si ripeterà il prossimo anno, quando darò, mi dedicherò ad altro, magari le informazioni sul traffico. Non è vero, non è, smentisco. Rievochiamo quindi un paio di favole che risalgono ormai allo scorso anno. Per esempio, la favola di Gargiolla e Baustina. Gargiolla e Baustina erano due sorelle molto belle entrambe, poiché fin dalla prima adolescenza si erano sottoposte a interventi di chirurgia estetica. Perciò erano giunte a 18 anni praticamente perfette. E tutti gli uomini le guardavano cercando di portarsele a letto. Qui c'è la prima morale della favola. Ragazze, se volete essere cercate dagli uomini, sottoponetevi volentieri a numerose sedute di chirurgia estetica. La chirurgia estetica fa bene, aiuta a rendere più sicuri di sé, soprattutto se soprattutto se effettuate nello studio del bravo dottor Ghidoli, il chirurgo estetico. No, siamo tornati alla pubblicità, che squallore! Nelle fiabe per bambini, già fiabe discutibili. Chirurgo Ghidoli, il chirurgo estetico preparato e di successo che saprà risolvere ogni tuo complesso, dal naso lungo al seno piatto. Scusate il momento pubblicitario, ma il dottor Ghidoli mi ha promesso dei soldi. Vale. Ma procediamo con la favola. Gargiolla e Baustina, arrivate ormai in età da marito, agirono in modo diverso una dall'altra. Gargiolla, che era più sentimentale, si innamorò di un uomo onesto, ma povero. Baustina, invece, si sposò con un commercialista molto benestante. Gargiolla, la sentimentale, per gli stenti, morì presto, insieme al suo uomo onesto. Baustini invece andò a vivere in centro, in una casa trovata dall'agenzia immobiliare Casa Perfetta. No, non ci credo. L'agenzia immobiliare che trova la casa dei tuoi sogni in tutte le città d'Italia. E mentre il marito commercialista era impegnato con le fatture elettroniche, ebbe anche modo di trovarsi un amante, perciò fu più felice. Qual è, bambini, la morale di questa favola? La morale è che l'amore non conta nulla di fronte al conto in banca, perciò bambini, amate il denaro più di ogni altra cosa e potrete sposarvi ed eventualmente anche avere un amante. Insomma, il denaro dà la felicità, però deve essere veramente tanto, tanto, tanto. Mannaggia, mannaggia. Vabbè, e veniamo ora alla seconda favola. Sì. C'era una volta un uomo molto povero, si chiamava Strifolone. che un giorno lungo una strada trovò un uomo in fin di vita con un grosso zaino sulla schiena. Strifolone chiese allora: «Oh, uomo in fin di vita, cosa porti nello zaino?» E il malcapitato rispose: «È uno zaino pieno di molto denaro, se mi salvi te ne darò una parte». Strifolone allora prese dal terreno un grosso bastone e diede una forte mazzata all'uomo in fin di vita, uccidendolo. Si impossessò poi dell'intero zaino pieno di denaro, ridendo e fischiettando. Qui c'è la prima morale della favola, bambini. Quando si presenta un'occasione dovete essere pronti a coglierla senza temporeggiare, perché occasioni così capitano solo una volta nella vita. Strifolone però fece l'errore di dire ai suoi parenti e agli amici che era diventato ricco. Tutti allora si presentarono alla sua porta, che per fortuna era una porta blindata come quella dei serramenti Gavezzoni. Serramenti Gavezzoni produce serramenti e portoncini blindati, dotati di feritoie per sparare ai malintenzionati prima che entrino in casa. Serramenti Gavezzoni, e per i ladri sono guai. Bene, ma terminiamo la favola. Tutti i parenti si presentarono a casa di Strifolone ed egli, sparando dalla feritoia della porta blindata, li uccise uno a uno, uscendo alla fine a dare anche il colpo di grazia a tutti. Rimase solo Strifolone, ma alla fine visse felice e contento col suo sacco di denaro, fino a quando morì in tardissima età, potendosi permettere, grazie al denaro, le migliori cure nelle migliori cliniche. Morale della favola: grazie al denaro si può vivere a lungo, quindi cercate di accumularne più che potete e non dividetelo mai con nessuno, perché solo il denaro, anche in solitudine, può dare la vera felicità. Oh, Neronello, non è che posso dire di essere molto contento, ho visto la discutibile scelta di inserire delle promozioni all'interno delle sue favole, però la ringraziamo moltissimo. Mi hanno promesso del denaro. Sì, le mie promozioni, le mie piccole pubblicità. Denaro sonante, quindi sono in linea con le mie morali delle favole. Va bene, va bene. Grazie per essere stato qui per tutta questa annata, per le sue favole che hanno allietato pochi bambini. Però spero pochi bambini. Grazie davvero. Però vogliamo concludere, a proposito di arte, visto che, caro Leonardo, tu hai in qualche modo riscoperto, dopo un po' di mesi di assenza, anche l'opera di Orfeo Bastoni, forse potremmo concludere questa puntata in nome dell'arte con una poesia di Orfeo due. Bastoni. Vediamo se c'è spazio per due, se no una. Come sta intanto il maestro? Non lo sento da un po', è per questo che ho deciso di riproporre alcune sue poesie, per così verificare se magari ancora ci ascolta ed eventualmente ha voglia di mandarci qualche sua nuova creazione. Vi ricordo Orfeo Bastoni, poeta dadaista, futurista e passatista. Per recitare le sue poesie è necessario prima questa sorta di rito propiziatorio. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Questa si intitola Pengo il dongo. Cisfo la vita mentre pengo il dongo, e pensieri mi obano il trucullo mentre pidiello mi aggiro Martino per casa. Della famiglia i franti dubbi mi avvangano e s'angusto reggo il froilo peso del gregge intero. Anelo un tamarindo momento di boscia quiete, ma la vita, zinga, presenta un boilo conto e avverso, e a nulla quinci aiuta a pengare il dongo, biscettare, basiculare, cingolare di futuro, se tutto si intride di cisfa, di gruvia, di trofia polemica. E solingo Mi scopro solingo, frello, reggente di me stesso, senz'altro conforto che il rebondo pensiero dell'altrui zebido tramestio nelle zeppe e sangre nubi del casellato tempo che verrà. Beh, io direi che è una conclusione meravigliosa di puntata, anche perché non c'è più tempo, e quindi insomma con questa poesia incredibile, anzi no, vogliamo concludere sempre in nome dell'arte con le note che abbiamo riscoperto in qualche modo. Cioè, proprio è l'angolo dell'arte, questo, l'ultimo. Senti, senti che riff, grandissimo riff. Grande rock, grande rock. Ma Federica Vino è il punto in cui interviene anche lei? Beh sì, qui c'è Federica Vino. Tra però... poco, tra poco arriva anche Federica. Adesso c'è la parte relativa alle auto blu. Auto blu, auto blu, siamo pieni di auto blu. Se diventi un portaborse pure tu, puoi sederti subito su un'auto blu. Auto blu. Signori, vabbè, ma Stella no, lo trovate in tutti i migliori negozi, no, in, no. Nei posti vintage, no, nelle piattaforme, no, lo trovate... Non lo trovate, non lo trovate più, non lo trovate più. Cercatelo, cercatelo, a domani. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.